Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io gli racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Humes. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, deviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Poi, subito in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Pochi mesi fa, carissimi ascoltatori del Bene di Tutti, parliamone, avevamo dedicato una puntata a San Benedetto da Norcia. Vi avevo presentato questo grande santo, fondatore del monachesimo occidentale, partendo dal Papa che aveva scelto il suo nome. Dopo Benedetto, è la volta di un'altra figura cara non solo ai religiosi, ma a tutta la Chiesa e a tutta la civiltà occidentale, San Francesco di Assisi. Perché Jorge Mario Bergoglio, scegliendo lo scorso 13 marzo, come abbiamo sentito dalle sue stesse parole, il nome del poverello di Assisi, ha voluto dare un'impronta netta al suo pontificato, Francesco, il santo del creato, il santo dei poveri. Con questa rubrica, cari amici, da un anno e mezzo interpretiamo il sociale alla luce del Vangelo, la dottrina sociale della Chiesa. Una dottrina composta dagli insegnamenti della Chiesa, dal Magistero dei Papi, che ha iniziata in maniera organica, diciamo in maniera un po' più strutturata, da Leone XIII con la sua Rerum Novarum ormai 120 anni fa. E ogni Papa ha dato il suo contributo, ha dato il suo contributo Giovanni XXIII, ha dato il suo contributo Paolo VI, ha dato il suo contributo per quello che ha potuto Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, e soprattutto ricordiamo anche Benedetto XVI con la sua Caritas in Veritate, che interpreta in maniera magistrale la modernità. Ebbene, noi che di dottrina sociale parliamo, cosa ci dobbiamo aspettare da questo nuovo Papa, Francesco? Per quel che riguarda ovviamente la dottrina sociale, su quali aspetti dell'economia, della politica, dell'ambiente vorrà far sentire la sua voce per prima? Ancora non lo sappiamo, ma dall'omelia della messa d'inizio pontificato alcune idee già le possiamo intuire, e la vicinanza con il santo di cui ha preso il nome è evidentissima. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che precede e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. È con noi, cari ascoltatori, padre Giuseppe Quaranta, un frate conventuale e professore di teologia morale e sociale presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Le parole di Papa Bergoglio sulla custodia, sulla tenerezza, sul creato, ci possono già dare la cifra della sua sensibilità sociale? Ma io direi di sì, ovviamente manca, sì, è ancora presto per poter avere un'idea più precisa, però certamente la sua sensibilità sociale, che conosciamo anche dalla sua vicenda argentina, è un uomo che ha studiato profondamente la dottrina sociale, si è sempre occupato di questioni sociali. Direi che questa cifra la possiamo cogliere, non solo dal punto di vista di un'ecologia cosiddetta ambientale, ma probabilmente anche di una ecologia umana, un po' sulla linea dell'insegnamento di Benedetto XVI. Quindi l'aver cura di tutti, del creato, ma anche di tutti, soprattutto delle persone fragili, deboli, dei bambini, dei poveri, ecco, mi sembra che sia davvero una finestra, ecco, aperta sulla sua sensibilità e su quello che ci dirà anche in seguito su questi argomenti. Sì. Cominciamo a dare le cose il loro nome. Papa Francesco ha parlato tanto di poveri, poveri, poveri, ma chi sono i poveri adesso? Ma direi che adesso abbiamo questa crisi economica che ci ha riportato, diciamo, con grande forza all'attenzione l'esistenza dei poveri anche qui da noi, nel senso che se qualche anno fa potevamo quasi illuderci di non avere dei poveri tra noi, oggi li abbiamo proprio sotto gli occhi. I poveri sono direi le persone senza, cioè le persone senza lavoro, le persone senza opportunità, le persone senza futuro, le persone senza possibilità, ecco, di vivere una vita dignitosa. Abbiamo anche i miseri oltre che i poveri, direi, cioè coloro che davvero hanno perso tutto, vivono per strada, tutte queste persone che vediamo purtroppo ogni giorno. Sì, non possiamo più dire come qualche anno fa, non possiamo più pensare o illuderci che non ci sia povertà e non ci siano poveri nemmeno nei nostri mondi, nei nostri paesi occidentali. È anche una povertà morale? Sì, certamente è anche una povertà morale. Io credo, sono profondamente convinto che spesso la povertà materiale si coniuga anche con una povertà culturale, con una povertà morale, per cui anche se bisogna sempre fare attenzione a non moraleggiare, ecco, sulla povertà, a non farne una sorta di favola moralistica, ecco, però certamente è anche un aspetto di questo tipo, sì, certamente. Proprio di povertà parleremo tra pochissimo, ci fermiamo qualche istante e torniamo subito. Il bene di tutti, parliamone. Siamo pronti per stare fuori, stare dentro vuol dire stare con voi. E siamo pronti per noi, sorella, Reggio, Liverpool, Memphis, Nashville, Radio Clash, da casello a casello, in questa gita di fine secolo. La la la, la la la la la la, è un mondo che non va a tempo. La la la, la la la la la la, tienilo tu. Yeah. sei pronta su qua sorella, che c'è chi suona la vita a ballare del bis, passa col mondo al collo in questa notte di fine secolo. Lai la la, lai la lo la lo la, è un mondo che non hai scelto. Lai la la, lai la lo la lo la, il suono però, il suono però, il suono sì, il suono però, il suono però, il suono sei ancora bomba per noi. Buon compleanno Elvis, guarda che sogno che avrei. Mi passi le scarpe che qua c'è ancora posto per noi. Non ci rompete il tempo mai. Verità, cosa c'è lì sotto? Di la verità, cosa porti dentro? Cosa porti con te? Di la verità, cosa tieni stretto? Cosa c'è, cosa c'è? Di la verità, ti basta tutto questo? Noi siamo pronti per non cambiare, al di là di chi c'ha ragione, e pronti per un bimbo a palula in questo giro di fine secolo. Lai la la, lai la lo la lo la, è un mondo che non fa sconti. Lai la la, lai la lo la lo la, pagalo tu, pagalo tu, pagalo, pagalo tu, pagalo tu, paga che c'è ancora bomba per noi. Buon compleanno Elvis, guarda che sogno che avrei. Mi pensi la vita che qua c'è ancora posto per noi. Non ci rompete il tempo mai. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori del bene di tutti, parliamone. Francesco, San Francesco, Papa Francesco, cosa ci possono comunicare come dottrina sociale della Chiesa? Stiamo assistendo all'inizio di questo grande pontificato di Papa Bergoglio e siamo in collegamento proprio con un francescano, padre Giuseppe Quaranta, che è anche professore di teologia morale e sociale presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Grazie per essere con noi, padre. Grazie a voi, buongiorno. Abbiamo parlato prima di poveri. Papa Francesco, nei suoi primi giorni di pontificato, diceva di sognare una chiesa povera. Sì. Che senso ha una chiesa povera? Beh, Papa Francesco credo riprenda sia un suo sogno e un suo impegno, diciamo, latinoamericano, cioè che ha segnato comunque la sua vita, il suo episcopato in Argentina. Riprende anche, credo, un sogno del Concilio, il sogno di una chiesa dei poveri, un tema che vescovi latinoamericani, il cardinale Lercaro di Bologna, avevano proposto anche come alla discussione conciliare e che è rimasto un po' sotto traccia poi nel post-concilio. Credo che riprenda questo sogno e lo riproponga con una naturalezza e con una credibilità che è data anche dalla sua stessa persona, per cui direi che riprendendo questo sogno Papa Francesco propone una chiesa certamente più sobria, cioè anche più snella forse dal punto di vista dell'apparato burocratico. L'altro giorno diceva la chiesa non è una ONG, non è una organizzazione non governativa, la burocrazia è utile ma nel piccolo, diciamo, e poi una chiesa povera capace ad esempio di condividere maggiormente le sue risorse anche economiche, cioè capace di spogliarsi in qualche modo di risorse eccessive o superflue e di condividerle con i più poveri. Sappiamo che ha tagliato un bonus degli stipendi anche del personale vaticano. Una chiesa più povera, qualche commentatore dice, anche nel senso che rinunci ad esistere al di fuori di Dio, cioè riesca a sentire e a mostrare davvero che tutto viene da Dio, dalla sua grazia, e quindi anche in questo senso povera. Oltre a questo, credo un ultimo aspetto, una chiesa di popolo, cioè una chiesa che abbia l'odore delle pecore, come si è espresso parlando del buon pastore, cioè che sia più vicina, più a contatto con la gente. Credo che potrebbero essere queste essenzialmente le indicazioni da trarre rispetto a questa sua insistenza sulla povertà della Chiesa. Spostiamoci un attimo da Papa Francesco a San Francesco. Sì. Assisi per me è una piccola oasi, insomma, mi piace andarci, mi piace starci. Ecco, sì. Nell'agosto scorso sono stato in una sala del Vescovado dove 8 secoli fa Francesco di Bernardone si è spogliato. Prima era una piazza, adesso è stata inglobata nel Vescovado, dove San Francesco si è spogliato delle sue vesti e ha dato origine, insomma, al francescanesimo. Quel gesto è stato rivoluzionario, ma qual è il senso di questo gesto adesso? Ma guardi, quando penso a quel gesto mi vengono in mente almeno due immagini, se vuole, del contemporanee. Non so se ha presente un film di Özpetek, il regista turco, Cuore Sacro. Lì c'è la storia appunto di una donna che lascia, in seguito ad una crisi esistenziale molto profonda, lascia la sua carriera di manager e insegue una bambina che la porta tra i più poveri della città. E il regista l'ha rivelato anche in qualche intervista, coglie questo profondo cambiamento di questa donna raccontando come una spogliazione in parallelo con quella di Francesco. Così come penso ad una signora, ad una persona che mi diceva qualche tempo fa che lei, pensando ad una vita più sobria, più autentica, sognava i piedi di suor Anna, una suora francescana che calza sandali senz'altro, senza calze, e mi diceva i piedi di suor Anna sono l'immagine di una vita più vera, più autentica, anche più sobria rispetto a tanti orpelli, a tante cose superflue. Ecco, credo che il gesto di Francesco, raccontato anche oggi con accentuazioni ovviamente differenti, però dica di questo desiderio, ormai credo anche profondo, di questa inquietudine, di questo desiderio a volte di lasciarsi davvero, di lasciare un po' da parte tutto ciò che ingombra il cuore, toglie l'aria, toglie il respiro. Direi che questo potrebbe essere il senso di quel gesto tuttora attuale, tuttora significativo. Da una parte abbiamo San Francesco che dice denaro sterco del diavolo, dall'altra abbiamo i francescani che hanno inventato il Monte di Pietà. Come si conciliano queste due cose? Ma guardi, questa domanda meriterebbe una panoramica più ampia, perché ovviamente ci sono questioni di diritto, di filosofia dietro, però direi così, non è una contraddizione. Beh, i Monti di Pietà sorgono nel XV secolo, e quindi siamo già nel 1460 circa. L'intuizione è questa: i frati francescani, proprio perché poveri, volontariamente poveri, intuiscono che devono lottare contro l'usura, e intuiscono che il denaro ha una valenza collettiva, ha una valenza civile. Con i Monti di Pietà inventano una forma di accesso al credito che salvava le persone dall'usura. E i frati non cessano di condannare l'usura, la condannano sempre con grande forza, e non cessano di mantenere una rigida povertà personale. Tuttavia colgono che nel contesto della città l'usura stronca, oltre a essere un peccato, un vizio capitale, stronca la possibilità di un benessere condiviso della città. E allora l'invenzione dei Monti di Pietà, che tra l'altro quasi tutti quelli fondati dai francescani mantengono una piccola quota di interesse rispetto al prestito, proprio per responsabilizzare le persone e anche per non ridurre poi l'esperienza del monte a pochissimo tempo, perché non era sostenibile nemmeno allora, creano questo benessere condiviso, questa possibilità di molti di avere accesso ad una forma di credito, intuendo appunto che nel contesto civile, nel contesto di una economia civile, il denaro non è solo sterco del diavolo, ma è possibilità di togliere molti dalla miseria e di togliere molti dalla piaga dell'usura. E in questo senso l'intuizione francescana dei Monti di Pietà sì, non è contraddittoria, ecco, rispetto alla pericolosità del denaro che Francesco, insieme a tutta la tradizione biblica, mette in evidenza. Grazie per questi contributi e vediamo adesso quello che ci darà Papa Francesco anche dal punto di vista sociale. Grazie Padre per essere stato con noi. Grazie mille, buona giornata a voi. Ci troveremo nuovamente, carissimi ascoltatori, la settimana prossima al Bene di Tutti Parliamone. Potete mandarci una mail a redazione @blu-radio-veneto.it o potete riascoltarci sul nostro sito. Andrea Cantone vi saluta, alla settimana prossima. Avete ascoltato Il Bene di Tutti, Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.